Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Sentite in questo momento c'è stato un violento terremoto, ne diamo conto, stiamo andando in diretta, c'è un violento terremoto qui nello studio di Taxarubra, stiamo ancora facendo una rassegna stampa che abbiamo interrotto però proprio perché questa sosta è stata estremamente violenta, è finita in questo momento, sono le 7.41. Scossa tremenda, per più forte di qualsiasi altra scossa. Siamo usciti fuori, chi era in centro storico, punto di raccolta, piazza San Benedetto, abbiamo visto intorno crollare tutto, ringraziando Dio le case ci hanno permesso di uscire, gli alberghi hanno permesso alle persone di uscire, quindi che possiamo dire? È arrivata questa grossa botta e ci ha cacciato tutti fuori. Fortunatamente siamo riusciti ad uscire tutti quanti. Vi siete raccolti in piazza San Benedetto, no? Vabbè, diciamo, mentre siamo usciti ci stavano delle chiese che cascavano, quindi abbiamo visto dei grossi polveroni e siamo rimasti, diciamo, nelle piazze più larghe. Per evitare ovviamente che vi cadessero addosso cornicioni e simili. La sua casa ha avuto modo di capire cosa era successo? La casa... credo pochissima roba, però diciamo che i mobili me l'ha buttato tutti giù. Se non c'ho lesione, però c'ho altri tipi di problemi. Questo era il nostro Simone Spezia lì sui luoghi del terremoto, dove purtroppo si vive così. Si vive nel terrore, nella paura. Ci sono migliaia, decine di migliaia di sfollati e c'è oggi il Consiglio dei Ministri con Renzi, pare pronto a mettere sul piatto quasi 8 miliardi per ricostruire tutto fino al 2047, entro il 2047. Questa è la promessa del governo. Signori, noi siamo qui. In questo lunedì 31 ottobre ci siamo, voi che fate? State facendo il ponte, state a dormire, state a casa. Ah, devo dire subito che domani invece il Parlamento rimarrà chiuso. Domani il Parlamento è chiuso. Caro Peter Bescapè, l'alpino! È tornato con una faccia radiosa, è tornato con una faccia solare. È tornato dalla licenza matrimoniale con una faccia allegra, con meno occhiaie. E se ci sono, non sono dovute alle sveglie alle 5. Bravo Alpino! Il nostro Peter Bescapè in regia, il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo qui. Allora, poi c'è la questione del complottismo, mamma mia. Ah, dov'è qua che me la sono tenuto? La senatrice, tenete conto, senatrice. Enza Blundo, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ieri ha rilanciato questa bufala del web, bufala. Le bufale basta che tu le rilanci, non è che te le devi mangiare mozzarella di bufala, basta che le rilanci in rete. Della magnitudo, sapete che c'è questa bufala clamorosa della magnitudo che viene ritoccata, perché se si dichiara sopra un certo livello bisognerebbe pagare rimborsi pieni, invece se si dichiara sotto un certo livello viene fatto così. E quindi la senatrice Enza Blundo dice: il TG1 apre dichiarando una scossa di 7.1. Si vede che è vero, è stata dichiarata così, ma è stato un errore. Poi la declassa 6.1, menzogne per interessi economici del governo. Mamma mia, ragazzi. Guarda, non ho neanche il coraggio di darla in pasto a Vincino. Non ho neppure il coraggio di darla in pasto a Vincino. Che saluto però, caro Vincino. Buongiorno. Come stai? Dove stai intanto? Nelle tue tante case? Sto a Roma, no. A Roma si è sentita, eh? Ma sì, sì, ero fuori io, ero andato a comprare i giornali. Ah, e beh, alle 7.40. Torno e la porta si muoveva, no? Sì, pensavo che era il cane, che invece no, non c'era nessun cane proprio. Era il terremoto. Ma si sente, cioè, si è sentita brutta? Si è sentita forte? Sì, mia figlia mi ha detto: papà, perché mi muovi il letto? Invece non ero, io ero fuori, perché non ero fuori a prendere il giornale, sì. Oh, mannaggia, va bene, non ti... Vabbè, intanto fammi salutare Silvia Brasca, con l'urlo solito, perché ecco, la vita va avanti. Meno male che c'è l'Inter, signori, è lunedì. E guarda che l'ho inventato io questo hashtag, è iniziato così, in maniera un po' simpatica. Ah, proprio un genio, è satira politica, eh? Ma no! Adesso non ti innervosire così, dai. Però è proprio... Cioè, adesso è come è una sicurezza come le tasse, cioè proprio pam, ogni partita, pam. E temo che hai ragione. Però. È così, pam. Cioè, è così, va così, va così. Io dai, non voglio neanche più usarlo, ma cioè, lo rottamerei questo, meno male che c'è l'Inter, ma così mi spunta. C'è poco da ridere, c'è poco da ridere, dai. Dai, è proprio una squadra inutile, ha detto le sconcerti. È una squadra inutile, vabbè, dai. Una squadra inutile. Apriamo allora il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento. Siamo con, ragazzi, Silvia Brasca. Se vuoi, prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Del TG della 7 con Vincino, Silvia Brasca, che ieri sentivo raccontare del terremoto, anche lei. TG. Le bufale. No, vediamo un po', non vorrei darla in pasta a Vincino, ma Vincino, che cosa ne pensi di questa storia di questa senatrice Enza Blundo del Movimento 5 Stelle? Non penso nulla, dai, non è che c'è nulla da pensare. Vabbè, dai. Imbecilli dappertutto, a qualsiasi ora, non è... Ma sono tu che frequenti il Parlamento, sono aumentati, adesso al di là non entrare nei partiti in genere, cioè io ho questa idea che è tutto peggiorato, sì, vabbè, ma ormai da 3 anni, insomma, non è che gli ultimi 3 anni, diciamo, è peggiorato molto, ecco. Ma tutto, tutto, cioè anche il panettiere magari ti farà il pane peggio. Tu dici in tutti i sensi? Ero ottimista prima di... No, ieri è una giornata terribile, non è che... chiaro. Ieri è una giornata che, al di là della, cioè, del sentire la scossa forte e cosa, non è, perché uno non vede luce in questa storia qua. Sì, è non vero. Vede, non... Il problema è questo, non si sa fino a quando questa faglia... si muoverà. Poi ieri naturalmente la cosa bella è che non ci sono stati morti, in generale pochi, qualcuno di problemi di cuore, ma insomma morti sotto le macerie, per cui questo è... No, dopo uno pensa questo, le cose si ricostruiscono, le case, le chiese, ragazzi, le cose si ricostruiscono, ma ci sono 100.000 sfollati, ricostruire lì sarà lunga, ecco, questo se non altro lunga, almeno oltre che costoso. E poi soprattutto come, perché non è facile. Io ero stata in Giappone dopo lo tsunami ed ero stata, lo tsunami fu di marzo e io ero lì in ottobre e ancora con molta pacatezza comunque, non con i toni che spero non ci saranno in Italia, discutevano su come ricostruire, perché anche con lo tsunami aveva cambiato gli scenari, quindi loro avevano dei presidi antisismici, però detto, questo terremoto è andato oltre, così come adesso ricostruire, iniziare a pensare con un evento sismico in corso così importante su come ricostruire. È evidente che alcuni sistemi antisismici forse non sono ancora adeguati, quindi ci sarà purtroppo anche un momento lungo di discussione sul come e il dove. Anche perché è cambiata la morfologia proprio del paese, è quello, le valli, si sposta la terra, quindi appunto è quello che è difficile trovare la luce, come dice Vincino, perché non è neanche una questione di soldi alla fine, penso che i soldi si possono trovare, ci può essere anche uno sforzo collettivo di solidarietà di tutti, per carità, continuiamo a pagare tasse per la guerra della Abissinia, il pezzo d'Italia coinvolto è grande, coinvolge tutti, ricchi, poveri, no? Fronte del sì, fronte del no, insomma mi sembra che i toni su questo argomento possano cambiare, si possa trovare anche una solidarietà, ma il problema è anche come proprio, non sarà semplice. No, un'unità c'è adesso, perché mi sembra, non so, Vincina, anche tu hai notato, tutti i partiti politici... Dopo le imbecillità su Tit, poi come dire, si sono messi a ragionare, ecco, si sono resi conto. Devo dire una cosa, secondo me è tutta l'Italia è antisismica, cioè come dire, non c'è nulla di antisismico. Cioè tutte le case costruite sino all'anno scorso, insomma pochi anni fa, erano tutte, come dire, deboli sotto questo. Forse l'anno scorso no, però senti qua, anche Libero, il 35% degli edifici in Italia necessita di interventi. Cioè, secondo stime, perché sono stime, ci vorrebbero 100 miliardi di euro per mettere tutto in sicurezza. Cioè, case vecchie, case che non sono... come dire, che non sono adeguate, che non sono... E poi c'è anche lui, ti pregherei, Vincino, di appuntarti questo nome. Si chiama Pietro Luigi Altavilla, è il vice sindaco di Norcia, che ieri ha fatto notare nelle grandi difficoltà, anche ha piazzato questa sul Corriere della Sera. Sommissino, detto boia chi molla, e io non mollo, lo scriva. Capito? No. Sul Corriere della Sera, è così, c'è anche spazio per... Ricordo quando nacque a Reggio Calabria una rivolta di quelle inutili, pazzesca, c'è un residuo antico. C'hanno il vice sindaco di Norcia, ha detto boia chi molla, cara Silvia Brasca, e quindi è tutto a posto. Però 100 miliardi per mettere a posto tutte le case. Sì, ma questo è... allora scusa una cosa, aspetta, nel 43, 44 Palermo era di tutte, tante città italiane erano distrutte completamente. Sì. Invece del terremoto era il bombardamento degli alleati, no? Tu dici si può fare, sì. L'abbiamo ricostruite più o meno tutte. Sì, sai qual è il problema? Che non è che butti giù tutto e poi lo rifai, e in quel caso un evento sei obbligato. È ricostruire le cose, cioè risanare tutti quegli edifici che uno dice: no, io non me ne vado via da casa, questa è casa mia, no, la mia casa è a posto, no. No, non c'è più questa cosa. Dici no, guarda, dopo ieri non questa cosa, la gente esce prima tranquilla, cosa non hanno più paura. Silvia, tu che dici? Ma dico che c'è intanto un primo problema, è quello delle macerie, che guardate non è secondario di dover portare quelle macerie, davvero non lo sapevo, l'ho visto già con la scossa del 24 agosto. Il primo problema reale è dove portare le macerie, movimento terra. Già questo sarà un problema, cioè, non dico la cosa sarà molto difficile i problemi sono tanti e quello bisogna avere la mente molto fredda, sì. E insomma per esempio un'organizzazione alla tedesca, però appunto ho visto in Giappone, che è l'eccellenza della ricostruzione, così che non è stato facile neanche lì. No, chiaro, anche a proposito del problema delle macerie, delle cose, dove metterli, come poi soprattutto come ricostruire su un quadro sismico che cambia, ecco, questo non è facile. A proposito di il movimento Terra, lo sapete, sì, che sono la grossa parte delle società dei camion di movimento Terra, di chi sono? Dai, dillo, di chi sono? In Sicilia sai, sono, di chi sono, Noi sappiamo di chi noi sono. In Campania pure, ma forse anche in Lombardia. Da noi in Lombardia lo sappiamo di chi sono. Adesso non so se sono arrivati al centro Italia. Tutti sanno di chi sono. Tutti sanno di chi sono, diciamo, non del Sciurbrambilla. Vabbè, ma d'altronde, allora, a proposito di mente fredda, sentite qua, il presidente della Regione Marche. In grado di organizzare tutto velocemente. Tutto perfetto. Con fattura, ovviamente. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ecco perché c'è anche l'idea di avere la mente fredda. Ci sono questi titoli oggi: 30.000 sfollati, 40.000 sfollati, 100.000 sfollati. E qui devo dire che il presidente delle Marche, assumendosi anche la responsabilità, ha detto: devo correggermi, ho detto 100.000 sfollati per dire una cifra iperbolica. In realtà gli sfollati, lui stesso, sono 25.000 delle mani, capito? Cioè, così vuol dire una cifra, ma no, non c'è bisogno di cifre iperboliche, caro presidente. Cioè, è questo un renziano dell'ultimo. Ma lascia perdere, eccola lì la stoccata. Che esagera così, è arrivata, mi fa ridere anche sul terremoto. Guarda. Però Vincino è un grande, bisogna sorridere sempre, cari amici, lo so che è difficile. Lo so, a Rieti per esempio raccontano che migliaia hanno dormito in auto, perché chiaramente adesso c'è la gente che ha paura, ma per esempio c'è questa crepa a San Lorenzo in Lucina, credo, cioè, no? Questa è terribile, questa crepa, cioè, Vincino, vabbè, tu non le frequenti, sì, le chiese, no? Però dico, no, passa un po' lato dal condizionamento. Le frequento le chiese, mi piacciono moltissimo, assolutamente. Sì, no. Ma t'assicuro, vado anche a assistere. Vai a messa. Ci sono a Roma della chiesa della Santa Croce, io cedo una volta a settimana, cedo sempre. No, dai, vai a messa. C'è il chiodo vero, no. Vado a me. No, mi faccio il segno della croce entrando così da sempre, no? Da quando ero bambina. Aspetta che a proposito di messa, devo salutare questa. Ciao Danni da Fregona. Treviso, ha detto: se non mi saluti passo a Radio Maria. Salvi, siamo salvi. Abbiamo tenuto un ascoltatore, scusate, perché sai, se perdi gli ascoltatori in radio è terribile. No. Quindi Danni da Fregona l'ho salutato 3 volte, quindi per 3 anni, per favore, non passare a Radio Maria. No, dicevi, Vincenzo, scusa. Che tu entri, ti segni. Mi piacciono le chiese, assolutamente. L'aria, le cose, i capiti. Poi le cose sono incredibilmente erotiche, l'estate. Sta sicuro? No, veramente. Io da bambino c'era una statua di una Madonna con il seno di fuori. Basta, che allattava, Il traffico. E vai col traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Land. Sta retorica del Giappone è insopportabile. Cioè, il Giappone ha costruito case moderne perché non ha i borghi, i sobborghi che abbiamo noi sull'Appennino, sulle Alpi, sulle colline, eccetera. Milan. Per salvare Roma bisogna liberarla da tutti i cittadini romani, e te lo dice un romano nato a Via Merulana. Facendo il fenomeno, il genio di Firenze si è inventato anche l'ape, no? Provate a pensare che genialata. Cioè, io sono un lavoratore che lavoro, per 40 anni, 41, 42 verso i contributi, e poi se devo andare in pensione c'ho da chiedere un prestito a una banca. A me l'istinto che mi viene è di corrergli addietro fino a quando non l'ho preso. Poi cosa posso fare? Non lo so. È tornato Landini, dicevano che era più pacato, che non urlava più, che è invece Landini. L'ape. Allora, cara Silvia, tranquilla, sì. Ce l'aveva con me l'ascoltatore sul Giappone, perché anch'io ho fatto la retorica del Giappone, dice, qualche giorno fa. Dice, in Giappone con una scossa di questo genere forse scalfiscono un vetro. Forse. No, sì, il problema è che è vero che è tutto diverso, però da noi vanno giù le case che sono costruite negli anni, appunto, quelle degli anni 50, a volte hanno resistito di più quelle costruite, appunto. Quelle dei borghi, insomma, no? La carità, le cattedrali del 1300 adesso è venuta giù, ma insomma sono lì dal 1300 le chiese. E i terremoti c'erano sempre stati, insomma. Vabbè, comunque dai, parliamo non solo del terremoto, parliamo anche di altre cose. Caro Vincino, ma sai che arriva questa cosa in Rai? Forse da oggi, attenzione, io non so se sono... Vabbè, Silvia Brasca tanto sta alla 7, poi lei guadagna 1 milione di euro, quindi è una cosa che non le interessa più di tanto. Ma sai che forse arriva al tetto, a 240.000 euro, forse ci siamo, ma anche per gli artisti. Cioè hanno recepito questa norma sull'editoria, per cui bisogna guadagnare in Rai tutti 240.000 euro, ma non c'è neanche la deroga per gli artisti, quindi non so, un Fabio Fazio che guadagna pare 1 milione di euro, forse 2, no, forse 3, forse 5, boh, non so, mi sono perso un po' di milionato. Guadagnerà 220.000 euro. 240 adesso. Ma secondo te, se Fabio Fazio anche a gratis sarebbe là ogni sera a pontificare? Dai. Adesso, gratis, dai. Gratis, no, ma 200.000 mica è gratis. Dai. 240. Vabbè, 240 non ma è scusa, gratis. Ma io, allora, anche Giletti guadagna 500.000. Ma guarda, vabbè, lasciamo perdere. No, perché? Che t'ho detto? Ma perché, scusi, ma io manco 240.000 glieli darei, mi sembra caro. Vabbè, ho capito, ma è il prendiamo mercato un altro. Ma quale mercato? Dai, ma quale mercato? La Rai mercato non c'è. Ho capito, ma a Mediaset glieli danno quei soldi, anzi pare di più. Perfetto, vada a Mediaset. Poi c'è qua, sarà troppo piena, ma no, il problema è questo qua, a Mediaset c'è un po' di mercato e va bene. Ma la Rai no, non c'è mercato. Dai, cioè tu quindi trovi giusto che nessuno venga pagato più di 240.000? So, Conti, hai presente quella alla Rai? No, io alla Rai no, sino a quando la Rai non è privatizzata, sino a quando comanda il partito di governo, è insopportabile. Ah, quindi sì. 240.000, sì, cioè un'azienda del partito del governo non è fuori mercato, come dire, di per sé, lui di per sé comanda la politica, assolutamente, via. E quindi via. Tutti, via. 240.000 euro, tutti. Tutti. No, sotto 80-30.000. Ma secondo me faccio anche con 30.000 ci va lui la sera, ogni sera là, io ci andrei, guarda, non è che io un giorno dissi ce l'avrei anche gratis al Corriere, no, e beh, è finita, infatti, la mia storia. Hai lavorato gratis per anni. Che però Silvia Brasca, voi alla 7 come la guardi questa cosa in maniera un po' distratta, no? Forse dei talent, ma sì, in maniera distratta. Ma fare come i calciatori, il contratto, loro che appunto chi non è giornalista, che non può fare pubblicità, Carlo Conti deve fare un contratto, come si fa con i calciatori, dello sfruttamento dell'immagine, della pubblicità. Sì, e sì, ma lui probabilmente prende fare 2 milioni, cioè non può, a 240.000 alla Rai dicono questi se ne vanno. È un mercato drogato come quello del calcio, del valore, perché insomma Higuain appunto e questi qua hanno un valore lì, mi sembra, ho visto ieri certe cifre su Bonolis e la De Filippi, certo, tengono in piedi un palinsesto, cioè il sabato sera della De Filippi ti tiene, cioè, ho capito, ma io non ho capito, ma non è la Rai la De Filippi, sta a Mediaset, sì, ma appunto no, la Rai è il problema, è quello, la Rai non è mercato, questo è il discorso. Ah, quindi tu mi stai spiegando, Vincino, che secondo te il problema è perché è la Rai, cioè se ha solo perché è pubblica, questo è il punto, perché è pubblica. Solo perché è comandata dalla politica, da un partito del governo, questo è il punto, è insopportabile questa cosa qua. È insopportabile. Ma sì, dai, non è che cioè, Fuori, è fuori classifica, no? Vuole fuori entrare in classifica? Privatizziamola, vendiamo. Basta, azioni, Carlo Conti, 100.000 euro. 100.000. Carlo Conti, 100.000 euro. Tu più di 100.000 non glieli daresti a un caso. Più di un 100.000 euro non glieli daresti a Conti. Sai chi è Conti? Quello abbronzato, quello che quello si abbronza. Lo so, lo so. Ma perché terribile? Ma sì, però perché tu mi dici persone tutte che io appena li vedo scappo, non è che... Ma perché? Ma dimmene uno! Ma dai, io in tre anni non ne ho trovato uno che ti nomino e tu dici, oh, che non sia un radicale. Attenzione, che non sia un radicale, no. Che tu no. Allora, dimmene uno tu che si può nominare senza provocarti. Hai visto i radicali in televisione alla Rai? Ho detto senti. Allora, citamene uno del mondo dei politica, spettacolo, sport, non so, cinema, teatro. Uno che lo vedi e dici, oh, che bello, questo non mi suscita. Dai. Uno. Vuoi sapere quella la cosa più terribile in questi ultimi giorni, ore? Eccola. Il giovane Papa, guarda, non lo sopporto più. Questo sta a non fare niente là, non fa niente, sta sempre là chiuso là dentro. Si guarda l'ombelico, esce nudo fuori là, guarda quelli che... Niente, non ha un rapporto con una... Niente. Ce l'ha pure con Jude Law. Jude Law. Con un filmato meraviglioso, bellissimo, però il nulla, del nulla, del nulla. Mamma mia. Niente, abbiamo sistemato anche Paolo Sorrentino. Se non c'è, come dire, abbiamo sistemato tutti. Tutti sistemiamo, anche Paolo Sorrentino, eccetera. Allora adesso sistemiamo. Scusa, se succede qualcosa, tu l'hai visto? Che ne so. Ho visto la prima puntata, poi mi sono fermato. Ma vai alla seconda, è peggio ancora, alla terza, ancora peggio. Allora qui non lo so, guarda, romperò il televisore prima che arrivare alla fine. Non lo so. Comunque, sentite qui a proposito di calcio De Laurentiis, poi abbiamo lo psicologo di D'Alema, attenzione, ce l'abbiamo pronto, tra un attimo. Cioè, il 4 dicembre lei vota? Ma il 4 dicembre si può votare solo per Renzi, ma non perché io sia un supporter di Renzi, è per dare continuità a un paese dove la litigiosità ha creato in questi 70 anni ben poco. Vabbè, si è schierato il presidente del Napoli. Ma attenzione, è il momento. Allora, qua sapete che Vincino già la sua sindrome ce l'ha data. Ma insomma, D'Alema, la nostra rubrica, lo psicologo di D'Alema. Vogliamo sentire. Ridi, la dottoressa Brasca, psicologa, si prepari. D'Alema. E ci sono moltissimi militanti della sinistra che... Quindi il suo lavoro è quello, per arrivare... Il mio dove? Lavoro è rimettere insieme popolo. Quindi... che è disperso. Eccolo qua. Ecco. Dottoressa Brasca. Il grande pastore. Qual è la sindrome di D'Alema, secondo lei, dottoressa? Ha una sindrome ossessiva della personalità, guastata dall'età. Secondo me manca di rassegnazione del ruolo. È una sindrome guastata dall'età. Manca una rassegnazione del ruolo. Una supercazzola. No, mi piace. Questa sindrome, adesso andiamo giù a scrivere e diamo anche un nome. Sindrome da mancanza di rassegnazione. Io mi devo fermare però, Silvia Brasca, il TG della 7, Vincino, ciao. Preparati tu una prossima sindrome, su D'Alema, la prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... È arrivato Milanalino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, ci siamo in diretta alle 7:19 minuti. Siamo qui nello spazio della rassegna stampa di 24 mattino. La 183esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata, tutto tranquillo sotto quel profilo, tutto normale, tutto prosegue. Ovviamente i giornali sono dedicati soprattutto alla grande paura, alla scossa di terremoto terribile, la più forte ieri mattina e poi altre, e il timore anche delle migliaia, decine di migliaia di sfollati che si chiedono quando finirà questo stato di paura, oltre ovviamente alla devastazione, alle distruzioni, moltissime case che sono inagibili e ora andranno ricostruite. Allora andiamo a vedere i giornali in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a lunedì 31 ottobre, anche ottobre che se ne va con le aperture dei quotidiani, a parte il Sole 24 Ore, l'edizione più fredda del lunedì dedicata al fisco, una manovra in tre tempi, questo è il titolo di prima pagina. Come detto, tutti gli altri quotidiani sono dedicati al terremoto. Crolli, feriti, 40.000 sfollati, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, la terra si è aperta. È la scossa più forte dal 1980. Il Messaggero, fuga dai crolli, 40.000 sfollati. La Stampa, i 100.000 sfollati del terremoto. Ecco, qui bisognerebbe fare subito una precisazione. Anche il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha detto che sugli sfollati questa cifra di 100.000 è stata detta anche da lui in modo iperbolico. Vedete che finisce come titolo principale della Stampa. In realtà gli sfollati solo nelle Marche sono 25.000, in tutto 40.000 sembra. Anche il Fatto Quotidiano casca su questa cifra, 100.000 senza un tetto sicuro. Scossa catastrofica, 31.000 sfollati sul giorno, ecco un altro numero, 31, 40, 100, vabbè. Voglia di fuggire è anche il titolo di Libero, viene giù tutto anche la speranza, questo è il titolo principale. Mentre il Giornale, seconda casa, aumentano le tasse, questa è la manovra e anche il titolo principale sul terremoto, trema l'Italia, crollano le chiese. Veniamo con la cronaca. La cronaca la affido a uno degli inviati, dei tanti inviati sul posto. Sono sulla pagina 2-3 del Corriere della Sera con Goffredo Buccini. Il titolo, la scossa più forte, macerie e terrore in 100 comuni. Torna l'incubo ma senza vittime. A Norcia niente luce e acqua, la fila in piazza per avere il cibo. Castelluccio è stata rasa al suolo. Scrive il Corriere, il mondo le cade attorno e Suor Maria Francesca pensa sono pronta. Attorno a lei e alle altre 6 sorelle clarisse del monastero cade Norcia, cade l'Umbria. Cade il centro Italia, sono sotto 70 giorni di terremoto che dopo ieri toccano una nuova vetta di orrore e paura con decine di migliaia di sfollati, forse 40.000, con l'angoscia che diventa rabbia popolare, senza latte, né pane, tende, veri aiuti. E alla sera si fa imprecazione davanti ai pullman regionali che portano via dalle vite, dalle storie, dagli affetti, verso alberghi sul lago Trasimeno, verso un pezzo di terra stabile che non si sa dove sia. Non deportateci, maledetti, salvate Norcia, salvate noi. Queste le imprecazioni, scrive Buccini. Cade il mondo nel monastero alle 7:41 con una scossa da 6.5 che dura un'eternità, eppure non abbatte la statua di Santa Chiara. E Suor Maria Francesca viene strappata dal suo silenzio, dalla clausura, e tuttavia pensa sono pronta. Fuori, in piazza San Benedetto, la Basilica del Grande Santo di Norcia, meta storica di americani e giapponesi, è ripiegata su se stessa, implosa, il tetto risucchiato tra le mura, il campanile aperto. Due monaci benedettini erano entrati all'alba dopo le laudi per recuperare documenti dalle stanze pericolanti. Ora scappano, i sai neri, ora bianchi, di calcinacci. Si sapeva che ballavamo. Ma per non spaventare i turisti han detto che l'emergenza era finita, strilla ora la gente nei capannelli. Norcia sanguina nelle sue frazioni, Castelluccio, la terra delle lenticchie, è rasa al suolo. Si alzano gli elicotteri per portare via 30 vecchietti e due turisti, devono prenderli col verricello. A San Pellegrino crollano le ultime case, non c'è più nulla, piange un ragazzo che scende da lì. E così a Preci, così a Cascia. Queste strade meravigliose, tuffate nelle gole della Valnerina, sono serrate dai macigni, le gallerie sono trappole, i piccoli centri isolati, l'altopiano di Norcia ha cambiato fisionomia, dicono qui. I comuni colpiti sono almeno un centinaio. Questa è la cronaca. C'è anche spazio per il vice sindaco di Norcia, Pietro Luigi Altavilla, che dice al cronista del Corriere: sommissino io, detto boia chi molla, e io non mollo, lo scrivo. Sta di fatto che questa volta non ci sono vittime, c'è molto da ricostruire, tantissimo da ricostruire. I sismologi che dicono attenzione, perché continuerà lo sciame sismico, perché la terra continua a tremare. Elena Dusia, pagina 10 di Repubblica: più che una faglia sismica ormai sembra una trincea di guerra, 30 km di paura che partono da Visso a nord fino ad Accumuli a sud e continuano a sfornare terremoti, e invece di scemare in energia le scosse diventano sempre più forti. Il sisma che ieri alle 7.40 ha raggiunto il 6.5 magnitudo è il più forte in Italia dal terremoto dell'Irpinia del 1980. Così spiega Gianluca Valensise dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E in un giorno solo è stato seguito da una raffica di altre 300 scosse. Questo andamento in crescendo in realtà viene considerato un colpo di fortuna. Se l'energia che è stata rilasciata da tre grandi scosse e da uno sciame durato 2 mesi si fosse sprigionata in un colpo solo, avremmo probabilmente raggiunto una magnitudo 7, spiega Paolo Messina, sempre direttore dell'Istituto di Geologia Ambientale del CNR. La scossa, cioè, sarebbe stata quasi 6 volte più forte del terremoto di ieri e quasi 30 volte più potente del sisma del 26 ottobre. E dunque queste scosse, seppure potenti, ma diluite, sono meglio di una scossa potentissima e che potrebbe essere devastante. Ovviamente si vuole ricostruire. Renzi pronto ad aumentare il deficit. Questo è il titolo dell'articolo della Stampa di Alessandro Barbera. Oggi il Consiglio dei Ministri, lo sfondo è di sole bandiere italiane, quella dell'Unione Europea è rimasta arrotolata nei magazzini del cerimoniale, il tono, quello solenne, è quello dei momenti gravi. Ricostruiremo tutto, non faremo passi indietro, non faremo nessuno sconto. Autorizzati dalle Camere ad arrivare al 2,4% del deficit, c'è la manovra ovviamente che è sotto osservazione, ma secondo Renzi ora si arriverà a spendere. Altri giornali come Repubblica parlano di 8 miliardi, quasi 8 miliardi pronti a essere messi sul piatto per ricostruire tutto. Tra l'altro parla Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervistato da Fabrizio Caccia al termine di un'ennesima giornata complicata da Porto Sant'Elpidio, fermo, dice alla fine di questa giornata Fabrizio Curcio dice una cosa bellissima ed è questa: malgrado il dramma di un paese intero e tutte le difficoltà che abbiamo davanti, so che non sono solo e questo mi dà ancora più forza per continuare. Alla domanda da quante notti non dorme, lasci perdere, qui siamo in tanti a dormire poco, dormono poco, anzi niente, i cittadini dei territori colpiti. Siamo allo stremo, diciamo che dopo 2 mesi di terremoto infinito per tutti noi che lo stiamo vivendo da vicino, forse è rimasta da spremere solo la buccia del limone. Ma il gioco di squadra è straordinario. E dice il capo della protezione civile, stavolta il sistema di protezione civile era già attivo, e quindi i morti non ci sono stati, nessuna vittima perché eravamo già attivi. Così il capo della protezione civile. È chiaro che a proposito di soldi c'è questa cifra per esempio su Libero, il prezzo da pagare per mettere in sicurezza l'Italia ci vorrebbero quasi 100 miliardi, il 35% degli edifici necessita di interventi. Renzi dice ne metteremo in piedi tutto, spenderemo quello che serve, ovviamente si chiederà all'Unione Europea di sforare sul deficit per 3 anni, così racconta Paolo Emilio Russo su Libero a pagina 6, ma è chiaro che ora bisogna anche capire dove mettere le persone, si pensa ad alberghi, ad alloggi temporanei, non certo le new town di epoca berlusconiana dell'Aquila, non certo neanche le tendopoli. Parla infatti Angelino Alfano, il ministro dell'Interno, intervistato da Cristiana Mangani sul Messaggero a pagina 5, subito case prefabbricate per chi è in fuga dal sisma. Dice Alfano, intanto è noto che la previsione dei terremoti non trova riscontri nella scienza ufficiale, ora siamo concentrati sulla sistemazione adeguata alle persone, sulla sicurezza dei territori, sulla ripresa della viabilità stradale. Non è facile dire quanti soldi servono per la ricostruzione, non è possibile farlo ora. Si può affermare una cosa: metteremo a disposizione tutti i fondi necessari. Così dice Alfano. Riguardo al piano di emergenza per Roma, anch'essa colpita, ci sono dispositivi di reazione del nostro sistema di soccorsi pronti per l'operatività in ogni parte del paese, a maggior ragione per la capitale. Roma ha risentito del sisma di ieri in maniera molto acuta. Ovviamente gli interventi si sono concentrati nella zona umbro-marchigiana, in quella reatina, e in confronto a quelle regioni non si può parlare di un'emergenza a Roma. Così Alfano sul Messaggero. E non poteva mancare il complottismo, ed eccolo qui l'articolo che ci fa tenere ben salde le mani sul volante se siete alla guida, l'articolo che mi fa pinzare della giornata. Ci siamo ricascati dopo i microchip sotto pelle, l'esistenza delle sirene, le scie chimiche, il mancato allunaggio. Eccoci qui, i grillini ci ricascano, è un complotto, la scossa taroccata dal governo. Questa volta c'è cascata Enza Blundo, che ha dichiarato il TG1, ha dichiarato una scossa di 7.1, poi declassata a 6.1. Ecco perché, menzogne per interessi economici del governo. Perché? Perché secondo la senatrice, ripeto, del 5 Stelle Enza Blundo, è stata rispolverata questa bufala già smentita da mesi, secondo la quale la magnitudo taroccata verrebbe taroccata perché sotto un certo livello di magnitudo la legge non prevederebbe rimborsi pieni. Anche il terremoto che ha distrutto L'Aquila fu addomesticato a 5.8, avete capito? Addomesticato, per non risarcire i danneggiati al 100%, insiste così la Blundo. Ovviamente Facebook ha colpito, d'altronde su Facebook c'è anche lo scrittore Massimiliano Parente che ha scritto: beh, le chiese che cadono, quelle fanno ridere. Una roba del genere, le chiese che cadono fanno ridere. Vabbè, la senatrice Blundo poi un po' ha corretto il post, c'è da dire che Grillo e tutto il Movimento 5 Stelle ha preso un po' le distanze perché hanno tralasciato questa follia, ma comunque i grillini ci ricascano, è un complotto, la scossa taroccata dal governo. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Qua Baris dice che come legge le notizie Alessandro Milan è una corsa mondiale. Va bene, allora, caro ascoltatore, grazie. Parla anche Vasco Errani, che è il commissario per la ricostruzione, intervistato da Eleonora Capelli a pagina 3 di Repubblica. Dice Vasco Errani: se dopo un terremoto ne arriva un altro, poi un altro, devi rifare tutti i controlli e le schede per l'agibilità dei fabbricati. Il lavoro fatto adesso va qualificato e rafforzato, ma non è stato tutto sprecato. Non partiamo da zero. Io non mi scoraggio, tra la gente c'è paura, preoccupazione, per questo bisogna esserci, parlare, dare la spinta. Così dice Vasco Errani, che ieri era a Visso, e dice: ho trovato lo scoramento di persone duramente colpite. E aggiunge Errani: non vogliamo deportare nessuno, ma vogliamo far capire che dormire in macchina non ha senso, perché c'è questo tema, cioè che le persone non vogliono lasciare le proprie abitazioni, piuttosto dicono: dormiamo qui a fianco, dormiamo in macchina, ma non vogliono lasciare le case. Va bene, lasciamo invece il tema terremoto, lo affronteremo, poi torneremo anche dalle 8:15, perché sui giornali ci sono anche tanti altri articoli. Certo, un altro relativo a un altro crollo incredibile, abbastanza inspiegabile e denso di classico palleggio di responsabilità, il crollo del cavalcavia che ha paralizzato una strada statale importante della Lombardia, la Milano-Lecco e poi su fino alla Valtellina, ma soprattutto ha causato un morto, diversi feriti, un cavalcavia crollato, forse avrete visto le immagini, al passaggio di un tir con un carico pesante. Però guardate le immagini del giorno a pagina 17, le crepe dello stesso cavalcavia nel 2006, i danni creati poi ancora nel 2009, che passa, colpisce e danneggia il cavalcavia, e altre lesioni. Ci sono delle foto che dimostrano un cavalcavia molto lesionato ad Annone Brianza. Cavalcavia 10 anni di crepe, ecco i danni prima del disastro. Questo sul Giorno, mentre sul Corriere della Sera parla, intervistato da Cesare Giuzzi, il procuratore di Lecco, Antonio Chiappani, il quale è molto infastidito da questo palleggio di responsabilità tra provincia e ANAS, del tipo la competenza a intervenire era tua, no era tua, no era tua, no era tua. Risultato, dalle 13.30 è stato segnalato questo problema, il crollo è avvenuto 4 ore dopo e in queste 4 ore nessuno è intervenuto bloccando questo cavalcavia. Che glielo va a spiegare a questi, ai familiari della persona morta? Non lo so. E allora eccolo qua, il procuratore di Lecco. C'è stato un lancio continuo di accuse, come se tutti dovessero difendersi pubblicamente. Non è stato bellissimo. C'è stato uno scambio di responsabilità tra istituzioni che ho trovato anche abbastanza violento. A me queste cose interessano relativamente. Tutti dovrebbero pensare, è capitato, andiamo a vedere esattamente cosa è successo. Poi per le responsabilità ci pensa la magistratura. Antonio Chiappani, 63 anni, è il procuratore di Lecco con il PM Nicola Preteroti, sta seguendo le indagini sul crollo di venerdì ad Annone Brianza. Dobbiamo approfondire con attenzione quali sono le parti lese, quali invece avevano una responsabilità. Stiamo ricostruendo non solo a cosa si sono detti, ma anche il tenore delle informazioni. E poi dice, sulla Milano-Lecco ci sono 25 cavalcavia, non sappiamo a quando risalgano, quali interventi hanno subito. Anche questo ponte aveva subito lavori, mi dicono 2 interventi, dovremo capire quali opere sono state fatte e da chi. E riguardo ai tempi di riapertura della statale, c'è l'esigenza di aprire la strada al traffico, lo sappiamo, ma dobbiamo intervenire con attenzione, per questo abbiamo nominato un professore del Politecnico, esperto di costruzioni, per essere certo che tutto si svolga nella maniera più scrupolosa. C'è anche questa questione. Veniamo alla questione denari. C'è una questione denari e soldi relativa alla RAI. Da oggi dovrebbe scattare, in maniera definitiva, usiamo i 7 condizionali, neanche uno, perché se ne parla da anni, il tetto a 240.000 euro per chi lavora anche in RAI. E la novità, raccontano sia Libero che Il Giornale, ma ieri era su tutti i giornali, che anche le star della RAI dovrebbero mettersi e dovranno mettersi a dieta. Così racconta Enrico Paoli in prima di Libero. Dieta rigorosa e rapida per giunta, dato che conduttori e teledivi dovranno passare da compensi milionari a 240.000 euro l'anno massimo, come prevede l'articolo 9 della legge sull'editoria, che proprio oggi dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dunque dovrebbe diventare legge a tutti gli effetti, cioè diventa legge a tutti gli effetti. E in questo articolo 9 c'è scritto che il trattamento economico di dipendenti, collaboratori, consulenti RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non può superare 240.000 euro annui. Nel testo che arriva in Gazzetta non appare la dicitura ad esclusione delle prestazioni artistiche, il che vuol dire che Fabio Fazio, che guadagna circa 2 milioni, così racconta Libero, dovrebbe scendere a 240.000 euro. Carlo Conti, anche lui, incasserebbe 2 milioni. Massimo Giletti, che si ferma invece a 500.000 euro. Tutti costoro dovrebbero essere portati a 240.000 euro. I renziani tagliano lo stipendio all'amico Fazio. Questo racconta Libero. E anche Il Giornale, arriva al tetto agli stipendi RAI, ma l'azienda vuole graziare le star. Ecco, bisogna capire come fare. Vogliono graziarla, non vogliono graziarla, non si sa. Intanto, signori, un uomo che ne guadagna ben di più di 2 milioni l'anno... Un uomo che anche lui ormai lunedì probabilmente si sveglia e dice: oh, accidenti, è lunedì. Meno male che c'è l'Inter, almeno. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Soprattutto bentornato a Peter Bescapè. Grazie. È tornato quest'oggi e gli do chiaramente il bentornato. Che dire, guarda, con uguale determinazione, anche se ovviamente un po' contrariato, mi appresto a leggere di endecasillabi in cui riassumo il nostro titolo principale che tu hai letto molto poc'anzi, bene, cioè bene. Questa manovra che sta in più tempi, no? Qualcosa c'è, qualcosa arriverà, qualcosa non si sa dov'è, ma vabbè, sono molto oggi sul Sole 24 Ore, vado a declamarlo in endecasillabi come mi si confà. Come lo grano a separar dall'olio s'appresta in sull'estate il buon fattore, così stamani anch'io ammonirti voglio leggendo dallo Sol 24 Ore, che con pazienza più che certosina scrutò dentro la legge di bilancio, sì che tu scopra qual è più vicina di tante norme che ebbero gran slancio. Sono ombre vane molte che tu aspetti, e così è ancora l'ape sì bramata. Gli sconti ai genitor sono progetti, invece la voluntari è avviata. Molto ti stupirai, mio mattiniero amico, nelle pagine 2-3, nel leggere cosa è sogno e cosa è vero, e molto ancora di prezioso c'è sui fogli con la tinta del salmone e sullo sito che ha un eguale sfondo di norme con aggradita spiegazione o numeri a capir come va il mondo. Oggi tu certo non provi dolor perché hai battuto quei dell'Adriatico, mentre dai Liguri si affondò De Boer, che se ora vuol partire si ascolti il traffico. Di Bruno Fernandes può impostare l'apertura a sinistra. Quagliarella, rete! Quagliarella, Sampdoria in vantaggio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Alessandro Milan, etichetta rossonera, il conduttore che crea un'atmosfera. Allora, alle 7:46 minuti siamo qui, continuiamo a leggere quello che ci offrono i giornali, a cominciare da questo articolo, la polemica sulla nuvola di Fuxas che è stata alla fine inaugurata questo centro congressi. Beh, oggi Sergio Rizzo torna su questo tema, perché il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata fischiata, è stata accolta un po' con malumori all'inaugurazione, anche perché, racconta Sergio Rizzo, il clima a Roma è questo: siete fortunati che non siamo arrivati prima, perché la nuvola non ve l'avremmo fatta mai costruire. Con queste gentili parole, Salvatore Romeo, segretario particolare di Virginia Raggi, ha accolto un mese fa nel suo ufficio il nuovo amministratore delegato dell'Euro SPA, Enrico Pazzali, lasciandolo letteralmente di stucco. Poco importa che il comune non sia nemmeno proprietario della società che ha realizzato il centro congressi progettato da Fuxas, controllato dallo Stato al 90%. Il biglietto da visita della Giunta 5 Stelle è inequivocabile. La spiegazione per quanto accaduto sabato all'inaugurazione della nuvola, con le accuse della sindaca di Roma in diretta TV e i fischi della platea, è tutta qui. Inutile affannarsi in dietrologie, il messaggio è inequivocabile. Il nuovo centro congressi è considerato da chi oggi governa Roma il simbolo di un sistema che si regge su sprechi e malaffare. E qui Sergio Rizzo in effetti racconta che qualche spreco, qualche malaffare c'è stato. Sappiamo come hanno sempre funzionato le opere pubbliche in questo paese, nemmeno la nuvola è stata risparmiata, a cominciare dai 18 anni che ci sono voluti per costruire il nuovo centro congressi, con i primi 9 praticamente passati senza piantare un chiodo, per continuare coi 353 milioni spesi, di cui 239 per l'appalto giudicato a Condotte, somma paragonabile a quella investita nella famosa città dello sport progettata da Calatrava Tor Vergata. E senza poi dire di alcune amenità che hanno punteggiato questi 18 anni, di cui tutti hanno qualche responsabilità più o meno grande: l'immancabile arbitrato per regolare le pendenze precedenti all'appalto, costato 5,5 milioni, la burocrazia comunale che ci ha messo 3 anni solo per dare i permessi, incassando però 9,5 milioni di oneri concessori, tra l'altro lo sa la sindaca, chiede Sergio Rizzo, i professionisti degli incarichi già pronti ad accaparrarsi il collaudo finale per cui era prevista una spesa di 1,2 milioni e che senza l'intervento dell'autorità di vigilanza era già stato per metà destinato ad Angelo Balducci, in seguito assurto agli onori della cronaca per lo scandalo della cricca, e così via. Questi sono i fatti scritti da Sergio Rizzo e sul Corriere della Sera, sulla nuvola di Fuxas, su quello che è successo. Però Questo è stato è stata la reazione, anche i fischi, dove quando c'è stata la presentazione ufficiale, inaugurazione sabato. Va bene, lasciamo l'Italia e andiamo a dare uno sguardo agli articoli riguardanti la politica estera, a cominciare dall'America, dagli Stati Uniti d'America. Tra praticamente poco più di una settimana si vota e che cosa pende sulla testa di Hillary Clinton? Beh, il fatto che l'FBI abbia riaperto la vicenda, l'inchiesta riguardante le mail fatte sparire. Hillary Trump ora è testa a testa, giura Repubblica, soprattutto dopo le ultime rilevazioni sull'email gate. Il vantaggio nei sondaggi della democratica Hillary Clinton è sceso a un punto. E Donald Trump sarebbe in vantaggio in Florida, uno stato chiave. Tra l'altro Federico Rampini racconta il profilo, in un profilo, chi sia James Comey. È un uomo chiave in questo momento, perché è colui che ha riaperto l'inchiesta su Hillary Clinton. Chi è James Comey? Beh, repubblicano, allievo di Rudolph Giuliani, più volte persecutore dei Clinton. È facile scivolare nella dietrologia su di lui, l'amico del giaguaro, potentissimo capo dell'FBI che ora è nell'occhio del ciclone. Ha disobbedito al governo da cui dipende, dal quale fu nominato, riaprendo un'inchiesta già chiusa a luglio su Hillary Clinton a pochi giorni dal voto. Ha commesso, secondo alcuni, un atto che la candidata Hillary Clinton definisce senza precedenti, profondamente inquietante. Anche la ministra della giustizia, Loretta Lynch, da cui l'FBI dipende, è furiosa contro Comey, accusato dalle più alte sfere dell'amministrazione Obama di prevaricazione, strappo alle regole, infrazione del protocollo che impone all'FBI un dovere di riservatezza e di discrezione in prossimità delle scadenze elettorali. Dunque, chi è quest'uomo che improvvisamente i democratici sospettano di fare il gioco del nemico? Quali motivazioni spingono il regista di questo clamoroso colpo di scena? Comey non è un super poliziotto di formazione, bensì un magistrato, si è fatto le ossa da giovane nell'antimafia. Per 2 anni lavora alle dipendenze di Rudolph Giuliani e oggi è uno dei maggiori sostenitori di Donald Trump. È sempre stato repubblicano, ha versato fondi per John McCain e Mitt Romney, salvo dichiararsi indipendente solo di recente. La sua decisione di riaprire l'email gate è tanto più irrituale perché 48 ore dopo l'annuncio si è scoperto che l'FBI non ha neppure ottenuto un mandato giudiziario per esaminare quelle mail. Dunque lui stesso non sa cosa c'è dentro, eppure ha creato un caos politico inaudito. La spiegazione più razionale, scrive Rampini, come si è convinto che anche se vince la Clinton, i repubblicani conserveranno la maggioranza alla Camera e da lì lanceranno inchieste parlamentari a non finire, e non vuole finirci lui su quella graticola. E questo però, la riapertura di questo caso rischia di riaprire anche i giochi per quel che riguarda le elezioni. Sono sempre su Repubblica, Vincenzo Nigro racconta dall'estero, ma ci riguarda da vicino, una vicenda, e cioè questa: dall'ospedale italiano che ha misurata, dunque in Libia, salva i feriti nella guerra all'ISIS. È un bel reportage, anche drammatico, dei dottori che lavorano negli ospedali, dei pronto soccorso, nelle sale operatorie. Così curiamo decine di uomini colpiti dai jihadisti a Sirte. E ve lo segnalo, la battaglia di Sirte raccontata dai medici italiani: in un solo giorno ci arrivavano molti feriti colpiti alle spalle, tutti colpiti lì. Noi li stabilizzavamo, li trasferivamo nelle camere operatorie, li operavamo, poi abbiamo chiesto a qualcuno e abbiamo capito cos'era successo. A Sirte i terroristi li avevano attirati in un tranello, li avevano fatti scendere in tunnel scavati sotto la città e all'improvviso avevano iniziato a sparare loro alle spalle. Un altro giorno, attorno al 6-7 ottobre, ci sono arrivati feriti a decine, 50, 60, è stato il giorno più pesante. Ecco, Vincenzo Nigro racconta da qui, nell'ospedale italiano, che a misurata salva i libici feriti nella guerra all'ISIS. Altri numeri invece in questa inchiesta di Mattia Echeli, che trovate sul Fatto Quotidiano, due pagine, pagina 12 e 13, sempre all'estero, si parla di giro d'affari stimato di 14 miliardi di euro l'anno, anzi 14 e mezzo, 14,5 miliardi l'anno, Sapete dove? In Germania. Sapete in cosa? Nel mercato a luci rosse. Sono 400.000 le ragazze coinvolte, un turismo dedicato sempre in crescita. Sono le prostitute legalizzate. In Germania ci sono quelli che definiremmo in maniera brutale i bordelli, e valgono un'economia di 14,5 miliardi di euro l'anno. Questo racconta il Fatto Quotidiano a pagina 12 e 13. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi un'intera pagina, Candida Morvillo racconta le cinquantenni, come dire, in salute, le cinquantenni, beh, Elizabeth Hurley, Halle Berry, Cindy Crawford, Monica Bellucci. Ho 50 anni, guardami Peter, guardami Galpino, guardale! Ma chi se ne frega!